Pedro Sanchez in realtà è un sopravvivente, nel senso che è stato dato per morto almeno 3 volte, è stato cacciato dal suo partito, poi ha vinto di nuovo, poi nessuno avrebbe scommesso nulla ed è diventato presidente del governo, poi adesso sembrava che insomma non sarebbe riuscito a sopravvivere a lungo, invece ha convocato elezioni e le ha vinte. Insomma, un po' contro tutti quelli che pensavano che avesse comunque davanti a sé una carriera molto corta, in realtà invece Pedro Sanchez si è dimostrato molto abile, molto anche capace probabilmente di leggere meglio di tanti altri, soprattutto nel suo partito, il proprio elettorato e anche il momento e la situazione politica. D'altra parte invece abbiamo visto in queste elezioni un Podemos che insomma si barcamena sempre intorno al 10-15%, ma che non riesce a convincere, ma ha avuto anche dei problemi interni. Cosa ci puoi dire a questo riguardo? Podemos, diciamo, per molti, naturalmente, osservando i risultati di 3 anni fa, quelli di oggi non sono risultati particolarmente emozionanti. C'è da dire che Podemos ha avuto un po' tutti contro, no? Da sempre, perché naturalmente è un partito che non piace all'establishment e ha commesso tutta una serie di errori a cui facevi riferimento anche tu. Sono errori sostanzialmente dovuti al fatto che è un partito molto giovane, un partito, diciamo, pieno di personalità politiche con un certo spessore, quindi diciamo un partito poco propenso alla forte leadership a cui l'ha sottomesso Pablo Iglesias in questi anni, e quindi certamente ci sono stati una serie di movimenti interni e anche esterni, appunto, che l'hanno indebolito. Detto questo, è anche vero che era dato per morto, era dato ci si aspettava che avrebbe perso molti seggi e molti pensavano che ne avrebbe persi molti di più. Invece in realtà la somma dei voti, diciamo, dei seggi dei socialisti e dei seggi di Unidas Podemos in realtà è maggiore di quella che era nel Parlamento uscente, quindi in un certo senso, diciamo, la chiave di facilitare gli accordi fra i due partiti di sinistra si è dimostrata vincente. Ricordiamo che nelle passate elezioni in realtà invece avevano lottato l'un contro l'altro armati, insomma, e stavolta entrambi, sia i socialisti sia Unidas Podemos, hanno deciso di non farsi la guerra e di far capire molto chiaramente gli elettori di Podemos, gli elettori socialisti, soprattutto gli elettori di Podemos, avevano chiarissimo che l'obiettivo era un'alleanza con i socialisti. Questo naturalmente in un partito di sinistra e di, insomma, che dentro di sé ha molte anime anche piuttosto, diciamo, di estrema sinistra, naturalmente può creare dei mal di pancia, questo è ovvio, ma in realtà come strategia complessiva si è dimostrata abbastanza vincente. Certo, come dicevano anche gli esponenti di Unidas Podemos ieri sera nelle dichiarazioni post voto, naturalmente avrebbero avuto molto più piacere che essere molto più forti e quindi garantire in qualche modo l'alleanza con i socialisti, perché non dimentichiamo che se i socialisti invece alla fine davvero decidessero di allearsi con Ciudadanos avrebbero una comodissima maggioranza di 180 seggi, per cui la posizione di Unidas Podemos è: forse ci siamo indeboliti, a noi contiamo di essere più importanti oggi proprio per garantire un governo effettivamente di sinistra. Eh sì, perché effettivamente le due soluzioni che si profilano per formare un governo alla fine sembrano coinvolgere o da un lato Podemos assieme agli indipendentisti, i quali però hanno fatto mancare la fiducia e cadere il governo prima, oppure con Ciudadanos, il che comporterebbe uno spostamento verso destra un po', no? Sì, dunque ricordiamo un elemento importante, che nella politica spagnola noi italiani non siamo abituati a vederla così, ma c'è una lunga tradizione di governi in minoranza, questo dal livello municipale al livello nazionale, nel senso che una volta superato il primo scoglio dell'investitura non c'è nessuna norma che richieda che il governo abbia la maggioranza, perché esiste solo la sfiducia costruttiva, come che è stata la stessa che ha scalzato Rajoy quasi un anno fa, cioè per sostituire un governo bisogna averne già un altro pronto, altrimenti non è possibile scalzare un governo. Pertanto la maggior parte dei governi che ci sono stati dall'introduzione della democrazia oggi, quindi dal 78 fino ad oggi, non aveva questa comoda maggioranza parlamentare e pertanto, diciamo, l'abitudine a dover negoziare provvedimento per provvedimento è abbastanza, diciamo, radicata nel panorama politico spagnolo, ma è vero che, diciamo, c'è poca abitudine, certamente non è mai successo a livello nazionale, poco a livello locale, c'è poca abitudine a costituire delle alleanze stabili che coinvolgano altri partiti, nel senso che non ci sono stati governi che non siano stati monocolore in Spagna, e adesso invece si apre la possibilità di appunto far entrare Unidas Podemos, ma sarebbe la stessa cosa anche se l'alleanza fosse con Ciudadanos. Ormai è finita l'epoca dei governi monocolore, oggi i socialisti hanno fatto la mossa di dire no, ma noi cercheremo di fare un governo monocolore, se l'abbiamo fatto con 85 deputati lo possiamo fare con 122, ma è abbastanza chiaro che chiunque decida di appoggiare questo governo lo farà da dentro e non da fuori. E il fatto che all'alleanza di sinistra manchino in realtà 5 o 6 voti, non molti di più, in sé potrebbe non essere un problema, perché comunque di governi minoranza ce ne sono stati tanti. L'importante è avere almeno l'astensione di abbastanza deputati nel momento della votazione di investitura, perché ricordiamo che in prima votazione ci vuole la maggioranza assoluta, quindi 176 voti, ma a partire dalla seconda votazione, che viene effettuata 48 ore dopo la prima, basta la maggioranza diciamo di sì sui no, per cui se ci sono abbastanza astenuti, in questo caso se ne vorrebbero solo 5-6, il governo potrebbe iniziare il suo cammino, e poi appunto scalzarlo diventerebbe molto, molto complicato. Difficile probabilmente potrebbe essere negoziare i provvedimenti, ma una cosa è farlo con 85 come hanno fatto fino ad oggi, e un'altra cosa è farlo diciamo con 165, che è la somma fra Unidas Podemos e socialisti, a cui si aggiunge anche un deputato di Compromís che quasi sicuramente sarà dentro questa alleanza, e forse anche qualche deputato del PNV, che è un partito nazionalista basco che normalmente è sempre molto propenso alle alleanze. E invece potresti darci un ultimo commento sull'ascesa di Vox, che nonostante non abbia sfondato comunque si attesta sul 10%? Allora qui i giudizi si dividono diciamo in due. Ci sono quelli che dicono beh, insomma, non è andata così male, d'altra parte qualcuno ne prevedeva 30 o 40, che ne abbiano avuti 24 tutto sommato è meglio di quello che sta succedendo adesso in Francia o in Germania o in Ungheria o in Italia naturalmente. E poi ci sono invece quelli che come me sono comunque preoccupati dal fatto che il 10% degli elettori spagnoli abbia deciso di sostenere un partito che è sostanzialmente apertamente fascista, apertamente omofobo, apertamente antifemminista, sista, insomma tutte le peggio cose, come si dice a Roma, che possono venire in mente su un partito. Ecco, Vox ce le ha, e il fatto che il 10% degli spagnoli abbia sostenuto questa opzione comunque dà da pensare, per quanto il 10% sono pochi e per quanto, e questo è un dato che secondo me è interessante, in realtà facendo dei conti, gli spagnoli comunque hanno votato più a sinistra che a destra ancora una volta, perché la somma di tutti i partiti diciamo apertamente di sinistra è sul 48%, e la somma delle tre destre, diciamo Vox, PP e Ciudadanos, supera insomma di poco il 43%, quindi comunque ci sono più partiti di sinistra che partiti di destra nel Parlamento, e comunque diciamo nel cuore degli spagnoli, e questa volta il cuore degli spagnoli è abbastanza ben ritratto, perché l'affluenza è stata piuttosto elevata, credo, non so se la seconda o la terza più alta dalla democrazia ad oggi, insomma, quindi molte persone hanno capito che le elezioni di ieri erano importanti, sono andate a votare, e quindi il risultato è abbastanza, diciamo così, fedele al quadro di quelli che sono i pensieri politici di questo paese.